24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La partita è tutta sulla sostanza concreta di, per la prima volta si abbassa le tasse. Allora, non ci crede nessuno. Taglio del cuneo fiscale. Vedono nemmeno qui, guardi, hanno fatto una faccia. Hanno fatto una faccia. Dai, lo vediamo, tanto. Mercoledì, quindi guardi. La cosa. Sennò domenica lei deve tornare, poi. Sì, così poi occupazione della RAI. No, beh, se mercoledì poi non fate quello che dice, deve tornare per forza. Viene a prendermi lei, non è un problema, nel senso. Mercoledì! Mercoledì italiani, mercoledì, un mercoledì da leoni, mercoledì si tagliano le tasse, così ha detto Renzi, non ci crede nessuno, lui stesso dice non ci crede nessuno, qua vedo le facce, ieri era da Fazio, non ci crede nessuno, ma mercoledì si tagliano le tasse, come, dove, a chi, perché, per come, per quanto. Questo bastano due giorni, bastano due giorni, cari italiani. Intanto buongiorno, eccomi qua, sono tornato all'alba della 45esima settimana decisiva che si apre oggi per la riforma elettorale e alla 45esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ma quelle sono lì, no? Quelle, boh, nessuno le tocca, non si sa bene, e la riforma elettorale invece siamo un po' più vicini. Oggi è un giorno decisivo, vabbè, no, abbastanza. Comunque, buongiorno a tutti, sono le 6:34 minuti, saluto Miriam Lucchetti in redazione, l'alpino Peter Bescapè in regia col suo cappello d'alpino, insomma ritrovo tutto come prima. Allora, può aprire il Parlamento? Sì? Oggi il Parlamento è fondamentale, perché... Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, Nicole, sempre qua. Forza, forza, gente. E insomma, deve iniziare questa settimana decisiva con lo sprint, col brio, con la verve dell'uomo più renziano che c'è in Italia, l'uomo che crede più di lui stesso Renzi, che mercoledì si taglieranno le tasse. Vincino, il nostro grande Vincino. Buongiorno. Lo farà mercoledì, abbi fiducia. Io vado già a prenotare la macchina nuova, sono proprio... Sei proprio già la cambiale, come gli spacciatori, sì, no? Che subito, tutto proprio, no? Subito hanno 2000 euro in busta paga, track, no, subito. Perché sennò non la trovo più, con tutti a comprarsi macchine. Che macchina hai prenotato? Già? No, ancora non l'ho deciso, però. Cioè, so che, ma non ancora quella, come no, perché poi in realtà io la uso pochissimo. Sì, però oggi come prima cosa track esce però, di casa, Vincino, concessionaria e rilanciamo i consumi. Allora Vincino, ti presento, torna con noi Federico Novella che conduce Mattino 5. Buongiorno, ma dove stai? Bene, io aspetto ancora un po' prima di prenotare la macchina, mi prendo ancora qualche giorno. Sento che sei in macchina, giustamente te stai andando a Canale 5, no? A condurre. Sono andato a Mattino 5, parleremo naturalmente di questo fantastico mercoledì che tutta Italia aspetta, dove finalmente sapremo dove prenderà i soldi Renzi, perché ieri non l'ha ancora detto. Infatti non l'ha ancora detto, servono 10 miliardi, che Vincino c'hai qualcosa? Io ecco, io, qua in tasca. Io farei tutto a credito, come dire, no? Pagherò. Esattamente, no, perché poi tagliando le tasse enormemente c'è un risveglio industriale coso pazzesco dello sviluppo italiano e quindi ci arricchiamo tutti moltissimo e tra un anno, due anni ci saranno molti più soldi, ma bisogna avere fiducia nel futuro. Come bisogna dire. Avere fiducia, vabbè, si taglia. Mica ci capita sempre Renzi, come dire. Vabbè, come si troveranno, Federico, si troveranno la spending review, il taglio, la revisione della spesa, non lo so, servo 10 miliardi, però questo è il dato di fatto. Vogliamo le regioni e via, papà. Eccolo là, ecco le regioni, adesso mo ci arriviamo anche alle regioni, no? Alle macro regioni. Federico, dove ritroverà secondo te i soldi? Non lo so, fai una previsione. Quello che hai detto tu, cioè il taglio della spesa, si parla anche per altre iniziative della Cassa Depositi e Prestiti, però diciamo che vedersele scritte queste cose magari avrà un effetto, mi migliore, perché fino adesso sono soltanto dei propositi, no? Insomma, i propositi sono buoni tutti a farli. Oh, però manca 48 ore, adesso non è che può sfuggire mercoledì a trovare i cellulari spenti, Renzi. È anche una raffinata strategia di comunicazione, creare la suspense. Io credo che Renzi lo faccia anche a bella posta, no? Di aspettare a rivelare dove prenderà i soldi. Non lo so, cari italiani, secondo voi vi do il numero degli sms 349-238-6666. Dove diavolo li troverà questi 10 miliardi? Vincino dice mettere un bel credito. La cassa depositi e prestiti sembra come quei depositi di Paperon de Paperoni. Sì. Messo là tutto, che poi c'è un presidente Bassanini che non si vuole fare levare manco mezzo centesimo, perché ce l'ha tutti lui, li controlla tutti lui, che poi sono i soldi dei poveretti delle poste. Certo. Una cosa però è certa, carissimo, una cosa è certa, che Renzi sa di giocarsi la sua partita, perché appunto non è che mercoledì poi ci siamo sbagliati, spegne il cellulare, non si fa trovare, no? Mercoledì è qui, è dietro le porte. Anzi, io ho detto mercoledì da Leoni, perché caro Vincino, sai chi ha detto così? Lo attendo in questo mercoledì da Leoni. Sì. Giovanni Toti, oggi in un'intervista al giornale, ha detto lo attendiamo in questo mercoledì. Giovanni Toti? Giovanni Toti chi? Chi? Giovanni Toti, dai! Federico Novella lo conosce benissimo, ex direttore. È stato direttore per tanti anni, adesso è il consigliere politico di Silvio Berlusconi, quindi è un po' frontman di Forza Italia. Hai capito, Vincino, chi è? Giovanni Toti. Ho capito, ma... Vabbè, ma non fare così, poi lui dirigeva due, quello che non credo, quando dirigeva due quotidiani in contemporanea di due reti diverse, che Rete 4 e Italia 1, come faceva questo... cioè, quando aveva uno... dove lo dava? Da Italia 1 a Rete 4, faceva... a Mosca, tirava la monetina in aria e via. No, vabbè, ma perché bisogna risparmiare, mica come i RAI ci sono quattro. Vabbè, le donne aspetta, bisogna risparmiare, mica la Rai 1 al suo direttore, Rai 2 al suo direttore, Rai, poi tanto i giornali sono tutti uguali. Le notizie quelle sono. Però aspetta un attimo, le donne, fatevi sentire Renzi che dice che si gioca tutto, ieri da Fazio. O la politica cambia se stessa, oppure ci porta in via tutti, oppure il fiume dell'antipolitica porta via chiunque. È anche il motivo per cui stiamo rischiando l'osso del collo. Io sto rischiando l'osso del collo, perché o cambio il paese, oppure bisogna che cambi mestiere per primo io. Non è che lo posso dire agli altri. Vincino, questo è effettivamente vero, cioè si gioca tutto. Una previsione fosca la sua, però. Sicuro, perché la politica non si è mai cambiata da sé. Cose, ma tu sei renziano, ma adesso fai quello. Cioè, eri qui a dire. Deluso, no, perché ha fatto un governo schifosissimo, terribile, un disastro, no. Però vabbè, insomma, mi pare, cioè, come dire, secondo me poi non riuscirà a cambiare la politica assolutamente, però l'antipolitica non riuscirà mai, perché quella non sa mai fare niente. Allora, l'ultima volta hai detto che il ministro peggiore era Padoan, hai cambiato idea oppure sempre... C'è pure Alfano, perché Alfano nessuno gli ha detto che non è più vice premier, lui si crede ancora vice premier, per cui annuncia, taglierò l'età, farò quello, ma che farai tu? Ma il ministro degli interni, che ministro... non ci sei mai in ministero, vai là a lavorare. Non c'è mai ministero. Ma che ne sai tu dove sta? Chissà quanti casi del Kalaki stanno succedendo ogni giorno, quanti poveri bimbi kazaki, Kalaki e cose vengono rapiti dai ministri degli interni. Che paese? Paese è il Kalakistan, Federico. Federico Novella, tu sei mai stato in vacanza in Kalakistan? Guarda, sto sfogliando l'Atlante, però per il momento non riesco a trovarlo. Il Kalakistan. Mi dai ancora un paio di minuti, magari a mattino 5 ci avete un Atlante aggiornato. Esatto. Allora, la questione, però, oggi io continuo a contare le settimane e continuerò a contarle chiaramente, perché sia chiaro che intanto la legge, per essere approvata, va approvata alla Camera e al Senato, quindi se anche oggi approvano la legge elettorale non è legge, e poi sarà legge solo alla Camera, non si capisce niente. Comunque la questione vera è, e qui abbiamo ovviamente due uomini a parlarne, la questione di genere, cioè le donne. Caro Federico, tu metteresti delle belle quote rosa per le donne? Le quote rosa non servono a nulla, perché se io ho un collegio dove gli unici bravi sono uomini, sono costretto a mettere delle donne incapaci perché la legge me lo impone. Allora le quote rosa, diciamolo, sono una palla pazzesca, almeno questa è la mia opinione, non so se Vincino è d'accordo con me. Non lo so, Vincino, tu metteresti queste, le vedi le donne tutte arrabbiate, Vincino ha fatto una satira sessista in questo momento qua, vedi? Ecco, chi questa poca fiducia sulla Boldrini ha detto 50 e 50 e 50 e 50 deve essere, se no io mai, no, assolutamente capito, no, ma non è che la Boldrini decide. Non è che decide su quasi tutto la Boldrini, sulla satira decide, sui tempi del Parlamento decide, su tantissime cose decide la Boldrini, assolutamente. Non, vabbè, non ma il parere di sulla Boldrini, il parere di Vincino, fuori, ma sì, ma chi se ne frega, ma il tuo parere, cioè tu metteresti le quote rosa? Io come dire, il mio parere personale fuori da tutte le cose è che in tutte le parti del mondo, quando le donne erano brave, acchiappavano e diventavano capi dell'India, di Israele, di tutte le parti dell'Inghilterra, della Germania, della cosa, e con le quote rosa non sarebbero mai diventate. Ah, assolutamente cioè, mai. Vabbè, questo è il parere però di due uomini che fa. Lo so, è un disastro. Dice che io sfoglio i giornali. Brunetta dice su sta cosa si è tirata troppo la corda. Ma è uomo pure lui. No, poi... Brunetta, se no è Brunetto, mica è. No. E quindi la mattina ogni tanto, no, infatti, ti escono delle cose terribili, Federico Novella. Non chiamarlo mai in onda se non alle 10, alle 11, Vincino, che ti crea un casino, una serie di casini inimmaginabili. Faccia protetta, non lo posso chiamare. Non lo posso chiamare. Però, siccome ha chiamato la Boldrini, allora Boldrini, presidente della Camera, ieri si è arrabbiata molto. Era da Luce Annunziata, credo, e ha detto che la satira nei confronti del ministro Maria Elena Boschi è una satira sessista. Qui abbiamo uno degli esponenti massimi della satira italiana, sentiamo la Boldrini. Fare satira sugli aspetti estetici, ad esempio, lo trovo sgradevolissimo, sia se a farlo è qualcuno di destra o di sinistra, non ha bandiera. Il rispetto della donna deve essere una cosa che tutti devono sentire come una necessità. Allora a me è dispiaciuto vedere la satira di Maria Elena Boschi. Voglio dire che ci sono tanti modi per fare satira, ma quando si cede un po' il sessismo, la satira diventa qualcosa Vincino, di altro. Vincino, c'era qua il sessismo. Sei sessista anche tu, dai. Perché... Ma a vedere questa ministra fatta nuda, cosa che faceva cose terribili per le strade di notte, è una cosa... Io ma sono rimasto malissimo a vedere questa satira qua così, era terribile. Ma che sei matto fatta nuda, ma no. Vabbè, era nuda là per le strade, io so, o no? No. Era vestita? Era vestita, sì. Sì. E allora dice, allora faceva un po' la svampita. No, cioè se non si può fare manco quello, che si deve fare? Non si può fare niente. Niente. Ma niente, che abbiamo fatto, come dire, tanti anni dedicati al nulla. Allora, è un disastro, la vita. Su questo devo dire sono d'accordo. Io, cioè, voglio dire, non so se Federico la pensa allo stesso modo, ma adesso è sessismo se si prende in giro perché è un po' svampita, si dice un po' svampita, ma è satira, ma voglio dire, ma se non si può. Non si capisce perché abbiamo campato per anni con Andreotti Gobbo, il Padolini Grasso e la Maria Elena Boschi bellissima, non si può dire, non capisco. No, ma infatti, ma subito è vabbè, è Vincino. Berlusconi, come dice, le sue 300. Sì. E 300 che? 300 che? Là, 300 vai, che? Là, le feste quotidiane di Berlusconi, che finalmente là si poteva fare un poco di satira sessista, quella, e tutti la per esempio ieri io quando ho letto questa dichiarazione sul Corriere della Sera, Silvio Berlusconi, due punti aperte virgolette, darò alle donne del mio partito qualcosa di concreto, e io subito ho pensato a Vincino, ho detto chissà Vincino che vignetta farebbe, e non lo so, ma non so se è satira, sono anche pensieri, non lo so. Comunque, andiamo al traffico e rientriamo. 24 mattino. Se c'ho la stitichezza, guardo Bossi. In sur subito me passa tutta quanta. E per riempio d'un botto 10 fossi. Io non so perché, da noi... Quando crolla qualcosa si apre un'inchiesta, non si apre un cantiere. Si continua a aprire inchieste e poi basta, è finita lì. Io ve lo dico subito, con questa grande bellezza ci avete fatto due palle, ma due palle che se scoppiano salta all'Italia. Mamma mia, mamma mia. Alle pecore tagliano il pelo una volta l'anno. A noi italiani pecoroni, generalmente due. Ora con Renzi, tre. Stavo solo pensando a Renzi che va nelle scuole a insegnare ai bambini come si costruisce un governo. Bimbi, prendete ora un po' di colla vinilica. Fatto? Ora prendete una sedia e posate la colla vinilica sulla sedia. Fatto? Bene, ora prendete Alfano e fatelo sedere sulla sedia. Ma badate bene, fino a quando la colla non farà il suo effetto, potrebbe staccarsi. Quindi, ora prendete la legge elettorale. Milan, debosciato, dove sei sparito? Ah, guarda, se la carta costa, anche l'elettricità costa. Finché non torni io spengo la radio. Ciao. Alessandro Milan, fatti aumentare lo stipendio, che senza di te questa trasmissione non tira. Ciao a tutti. Vabbè, allora prendo quest'ultima frase, la mandiamo alla direzione del personale insieme a Vinci, andiamo con Federico Novella, anche andiamo tutti lì e ovviamente per una giusta causa, cioè la mia, caro Federico, mica una bella delegazione, certo. Sì, certo, mica la tua o quella di Vincino. Per motivi umanitari. C'è chi mi scrive: ma chi hai ospite? La russa? Ma no, è Federico Novella, conduttore, però la voce sembra uguale. Hai mai pensato di fare l'imitazione? No, no, lascia stare l'imitazione di quella. Appena sveglio, purtroppo. Mi la russizzo. Va bene. Tra l'altro, allora, caro Vincino, ecco le ricette dei nostri ascoltatori. Dove trovano i soldi? Renzo, una bella accisa sulla benzina. Quella, ecco, adesso che Vincino va a comprare la macchina, giustamente, no. Caro Vincino, ti fregano così. Poi c'è chi dice un gratta e vinci, in qualche gioco di prestigio, qualcuno è sicuro, nelle nostre tasche. Quello, cari italiani, è certo. È certo, no, Vincino? Quello è sicuro, nelle nostre tasche. Assolutamente. No, devo dire una cosa, che sì. la prima cosa ha ottenuto di fare una litigata tra CGIL e Confindustria come non c'era da un È vero. E lui tutto contento, perché il primo obiettivo è raggiunto. Quindi stanno a massacrarsi, intanto sino a mercoledì sta tranquillo. Infatti, ha comprato i popcorn. Cioè, è abile, bisogna dire. Il ragazzo è abile. Ragazzo. Vedi che si riscopre sempre renziano. Sarai deluso, però... No, è il suo governo che è insopportabile. Oh, mamma mia. Ridicolo, no? Eccetto uno o due, forse, ma... Ecco, chi è che salviamo? Oh, facciamo vedere. Chi salviamo? Qui è una bella domanda. No, chi perché? Allora, riforme no, cosa no? Gli esteri, detto, non comunicata ancora. E chi salvi? Se riesce a risolvere la crisi ucraina, ma non ci credo. Vabbè, chi salvi? Chi forza. Salvi? Chi salvi? Che ne so... Hai detto tu uno o due? Hai detto tu uno o due? Uno o due, ma per così su tanti ce ne sarà la percentuale. No, uno su dieci ce la fa. Vabbè. Allora io devo chiedere intanto la squadra di calcio del cuore di Federico Novella. Ieri mi hanno chiesto su Twitter e vogliamo scoprire subito. Federico, chi tieni? Beh, la squadra che tutti vorrebbero tifare, cioè la Juventus. Ecco, è venuto. Ma perché lo chiamiamo questo? Ma io non lo so. Non lo so. Me lo sto ancora chiedendo. Ma io non lo so, ma dovevamo... Vabbè. Pazienza. Non affrontiamo questo dibattito che potremmo accenderci troppo. Ma no, infatti adesso l'Alpino mi manda qua, ma lascia stare questa canzone, poi non è di moda per almeno i prossimi 15-20 anni, lascia perdere, tirala via su. Allora, questo volevo chiedervi in un minuto e mezzo. Allora, Vincino, si sa, è tra Palermo e Roma. Tu, Federico, di dove sei? No, tra Palermo, solo Palermo. Palermo. Tu, Federico, di dove sei? Io no, di origini viterbesi, quindi laziale e juventino. Quindi, secondo Beppe Grillo già state in due stati due macro regioni diverse. Tu Viterbo stai centro, così io quando torno a casa secondo Grillo dovrei passare la dogana, esatto, è sì. Così tu Vincino a Palermo, io là come dire sto una nazione antica, ma questa svolta leghista di Grillo come la vedi? Che non sai che pesci prendere, guarda, perché adesso. Tutte queste storie qua, butto fuori questo, mangio questo, butto fuori quest'altro, è un disastro, come dire, ha paura di ritrovarsi solo con Casaleggio, allora

ha ottenuto un'ingiunzione dal tribunale al pagamento nel 2005, ma se va bene prenderà i soldi nel 2017, 12 anni dopo, quando il processo, ripeto, se andrà bene, verrà concluso. Ecco, se voi foste un investitore straniero mettereste dei soldi in un paese così? Oppure, sempre notizia di venerdì sul Corriere della Sera, come giudicare un paese in cui ha la procura più importante, la procura di Roma? Ogni anno ci sarebbero da celebrare dai 18.000 ai 20.000 procedimenti, ma i giudici sono in grado di celebrarne solo 12.000. E dunque, quelli in eccesso che si fa, quei 6.000 che ballano? Vengono tenuti in sospeso. Alcuni, probabilmente quelli dei reati che destano minore allarme sociale, vengono accantonati, non andranno mai a procedimento, d'altronde non ce la si fa. Ecco, che paese è? Due spaccati, due fotografie della giustizia italiana di cui vogliamo parlare con Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Bianconi, buongiorno. Buongiorno. Tu hai messo in rilievo la notizia di Roma, di quello che succede alla Procura di Roma. Voglio salutare anche Fabio Mantovani, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Buongiorno, presidente. Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Voi invece a Vicenza siete andati ancora giù. Allora, il caso intanto dell'artigiano non è un caso vero, dell'azienda artigiana di Vicenza che citava Gian Antonio Stella, tanto che voi a Vicenza siete arrivati a chiedere il fallimento del tribunale. Ma non è un, come dire, un tagliare il ramo su cui sedete, Mantovani? Beh, ovviamente questa è una provocazione, nel senso che oramai qui per farci ascoltare abbiamo bisogno sempre di qualcosa di clamoroso. È indubbio, è una provocazione, ma era per attirare l'attenzione su un fatto piuttosto importante ad avviso appunto di Vicenza, perché ci stiamo ritrovando a poco con sempre un minor numero di magistrati, una pianta organica che ne prevede 36 e già sarebbe insufficiente secondo il Ministero, fra pochi mesi sarà composta solamente da 21 magistrati. Quindi intanto i magistrati. La domanda a lei, la risposta se la dà, se fosse un investitore straniero lei investirebbe in un paese... La risposta mi pare quasi... quasi retorica, voglio dire, è evidente che in questa situazione non c'è certezza di tempi, ma o meglio, c'è una certezza che i tempi saranno biblici. Su questo però poi magari qualche critica, anche visto che lei rappresenta gli avvocati, qualche critica la faremo. A Roma invece la situazione è ben diversa, Giovanni Bianconi, la situazione, a me è molto impressionato leggere che alcuni reati, procedimenti per reati di poco, che destano scarso allarme sociale, per esempio frodi in commercio, minacce, invasioni di terreni, commercio di prodotti con marchi falsi, questi vengono accantonati perché, ma sono davvero di scarso allarme sociale, Bianconi? Beh, in parte sì, rispetto ad altri reati che bisogna perseguire è chiaro che sono di minore allarme sociale, insomma l'ingiuria, la minaccia, queste cose qui che poi nel provvedimento del procuratore viene indicato il fatto che se ci sono ragioni nella causa, non è che le cause non vengono trattate, perché il problema è il passaggio tra la procura e il tribunale, cioè le indagini vengono fatte in tutti i casi dalla procura, che certo, però produce per l'appunto tra i 18 e i 20 mila richieste di procedimento, richieste di processo, diciamo, no? Ogni anno. E poi dopo però il tribunale ne assorbe solo 12.000 perché non è personale, in questo caso non è mancanza di magistrati ma è mancanza di personale amministrativo, per cui se tutte 18.000 le domande insomma le richieste o di rinvio a giudizio o comunque di giudizio immediato, quello che sono, venissero trasferite al tribunale, e il tribunale non fisserebbe la data perché non c'è materialmente la possibilità di fissare la data, a meno che non la si fissi al 2020. Ma è chiaro che intanto sarebbe prescritto e poi comunque si rischierebbe in questo modo di mandare al 2020 un processo magari per omicidio colposo e di celebrare nel frattempo un'ingiuria che certamente ha minore valore, disvalore sociale. E quindi viene data una precedenza, diciamo. E quindi c'è una precedenza sulla base del fatto che già il tribunale ha dato una precedenza nei reati da trattare, e questa è una regola per cui alla quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato l'assenso. In realtà ci troviamo, e questo dal punto di vista culturale, diciamo così, è importante. Ci troviamo, è importante nel senso che è una svolta significativa. Ci troviamo di fronte a un'azione penale obbligatoria, diciamo così, regolata, mitigata, governata, chiamiamola come vogliamo. Ma insomma, diciamo, adeguata alle esigenze, sì, che gli stessi magistrati, sulla base di quello che emerge dai fascicoli. No, ma è chiaro, l'azione penale è obbligatoria in Italia, quindi appunto i pubblici ministeri devono istruire i casi, però poi succede che in realtà vengono date delle precedenze. Allora forse la domanda che si vuol fare, Giovanni, è questa: non bisognerebbe fare come un po' all'americana, cioè la discrezionalità dell'azione penale? Ma questo è un grande tema, insomma, che sul quale poi io, cioè, quando si parla di paragoni con l'America, torce il naso. Diciamo, no, per far capire gli ascoltatori, per far capire, nel senso che è inutile paragonare i sistemi che sono completamente diversi, dici sono i giudici e i procuratori eletti dal popolo, dopodiché quelli si regolano sulla base delle esigenze elettorali. No, diciamo, ma era per far capire la questione della discrezionalità, sì, certo, cioè, discrezionalità. Visto che poi dopo 6.000 processi di fatto non possono essere portati a compimento, comunque devono essere sospesi o bisogna dare una precedenza, e quindi è chiaro che però qualcosa... se si guarda dall'altro lato significa accettare l'obbligatorietà per i reati più gravi. Capisci? Certo. Nel senso che se si facesse invece diciamo automaticamente, l'obbligatorietà non verrebbe rispettata sicuramente a caso, mentre invece in questo caso si fa. Dopodiché non è che è il sistema migliore, la cosa migliore sarebbe avere a disposizione il personale per fare tutti i processi. Questo ovviamente. Certamente, però, io vorrei tornare per un attimo a Vicenza. Allora, Presidente Mantovani, sa che le accuse sono anche agli operatori del settore. Spesso si dice i magistrati non fanno abbastanza, lei da avvocato può confermare o smentire? Diciamo che io posso parlare solo per Vicenza, dove c'è un cosiddetto indice di ricambio superiore a 100, cioè voglio dire sono più i procedimenti che vengono conclusi rispetto a quelli che, diciamo, affluiscono nei vari uffici. Quindi voglio dire, non posso poi giudicare del singolo caso, ma i grandi numeri, almeno qui a Vicenza, danno questo risultato. Voglio dire, poi è del tutto evidente che qui il problema non è tanto legato alla produttività, o forse può anche esserlo, ma non mi risulta, è legato soprattutto al fatto che qui i magistrati vanno via e non vengono ricambiati. Quindi perché, una scarsa, c'è un carico eccessivo di lavoro. Scarsa di ricambio. Però la domanda invece è questa: quell'artigiano lì che ha ottenuto il decreto ingiuntivo per cui deve ottenere i soldi nel 2005 ma li otterrà nel 2017, perché ci sono le regole? Voi che siete gli operatori del settore, lavorate, sapete dove ci sono anche le possibilità, parliamoci chiaro Presidente, di tirare alle lunghe, certo, una causa, no? Perché certo, pagare e morire c'è sempre tempo. Certo. No? Ecco, perché non dite togliamo questa possibilità di fare ricorso? Perché c'è un decreto ingiuntivo a pagare, quell'artigiano li deve avere i soldi. Perché c'è un avvocato che difende il debitore che dice beh, ma no, intanto facciamo opposizione? Perché? Beh, in termini generali ovviamente il diritto di difesa non si può ovviamente negare a nessuno, bene, questo sì, è evidente. Questo poi è... c'è un altro problema su cui l'avvocatura ha sempre, diciamo, promosso le proprie iniziative, ma evidentemente senza successo, che è quello della semplificazione dei riti, perché in Italia esistono troppi strumenti processuali differenti l'uno dall'altro e questo crea già un primo tipo di problemi. In secondo luogo c'è un altro grosso problema, che è quello evidentemente della esecuzione delle sentenze, perché anche lì se l'artigiano ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, come spessissimo accade, il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo o è stato dichiarato tale nel corso del procedimento, poi nasce tutto un altro problema nell'esecuzione della sentenza o del decreto. Sì, voglio dire, è chiaro, lei dice che però gli avvocati sono per lo snellimento delle procedure. Certo, perché sa, certo, assolutamente. E poi comunque anche per quanto riguarda le più recenti iniziative del nostro Consiglio Nazionale Forense è di dare un aiuto in forma sussidiaria alla giustizia, per esempio tramite la promozione di camere arbitrali che qui a Vicenza peraltro esistono promosse dall'Ordine degli Avvocati da più di 10 anni. Io non lo so, vorrei da Giovanni Bianconi, da uno che vive molto spesso all'interno delle procure, segue le vicende sia penale che del civile, è davvero così? Cioè tutti gli operatori del settore sono per la semplificazione, cioè, oppure tutto ciò rende anche voglio dire l'allungamento delle procedure rende anche per gli operatori del settore, tutti da tutti i punti di vista? Sì, no, in realtà poi dopo nella vita quotidiana di ciascuno i rinvii e l'allungamento delle procedure sono uno strumento di lavoro, anche da quello che percepisco io, diciamo, da osservatore di quello che accade nei tribunali, nel senso che per esempio nel penale il raggiungimento della prescrizione è una delle forme di difesa, insomma, questo un gran classico, non lo so, un gran classico. Sì, voglio dire, ma per carità, garantendo il diritto di difesa, garantendo il diritto di difesa, però forse il sistema che garantisce un po' troppo la difesa, lo so che questo esco dall'avvocatese, per carità, non voglio distruggere millenni di diritti. Ma certo, nel momento in cui ci sono regole per cui la prescrizione è, diciamo così, abbordabile dal punto di vista dei tempi, è anche normale e giusto che un avvocato punti anche a quello come strumento per evitare la condanna del suo assistito, insomma. E il problema è se ci sono leggi che glielo consentono. Sta di fatto che se ci fosse questa semplificazione, per cui non ci può essere opposizione infinita, per esempio, a un decreto di ingiunzione al pagamento, no, Giovanni, si snellirebbe almeno questo, no? Una causa di un artigiano che deve prendere i soldi non arriva al 2017, mi sembra una cosa talmente... Dopodiché, però, gli interessi in questo caso sono due, di chi paga e di chi deve pagare. E anche quello di chi paga è un interesse ed è la metà della popolazione che vive nei tribunali, insomma, no? Cioè, quindi anche dal punto di vista, diciamo, del funzionamento del sistema è chiaro che uno dice vabbè, sarebbe meglio che tutto funzionasse e chi deve avere i soldi li ha, però siccome poi c'è tutta l'altra metà, cioè chi deve pagare non li paga o comunque paga dopo e quindi è sua convenienza, da questo punto di vista, diciamo, le aspettative sono equamente ripartite tra chi, no, certamente, chi preferisce che migliore e chi invece ovviamente via SMS che... subito un ascoltatore mi dice la classica massima che viene spesso ripetuta, no, causa che pende, causa che rende, chiederò conferma dopo la pubblicità anche al presidente degli avvocati Vicentini se sia davvero un proverbio, se sia davvero un modo di dire o se ci sia anche qualcosa di concreto in questo. Tra poco rientriamo con Fabio Mantovani, presidente dell'Ordine degli Avvocati Vicentini, e Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti stiamo raccontando di un paese bloccato, e lo si vede anche dalla giustizia con le due notizie che pubblicava il Corriere, dalla Procura di Roma e dal Tribunale di Vicenza. Lo stiamo facendo con i nostri protagonisti. Allora, intanto, presidente Mantovani, questa frase causa che rende, causa che pende, causa che rende, vabbè, l'avrà sentita mille volte anche lei, no? Purtroppo sono quei detti che sostanzialmente più che altro ci danneggiano, nel senso che al giorno d'oggi con 230.000 avvocati in Italia, voglio dire, con i redditi che sono in caduta perpendicolare da parte dei professionisti, non solo gli avvocati. E sa, magari si dice a maggior ragione, essendo troppi, no, bisogna no, procurarsi e procacciarsi i clienti. Purtroppo no, nel senso che è così, cioè il rinvio, la durata della causa non è uno degli elementi che diciamo può far guadagnare l'avvocato, anzi molto spesso la causa che dura troppo orienta il cliente a scelte diciamo molto diverse, e quindi no, direi di no, forse una volta, ma non sicuramente da quando ho cominciato a fare l'avvocato io. Non così, va bene, intanto mi faccia sentire degli ascoltatori. Giuseppe da Napoli ci ha chiamato all'800240024. Giuseppe, eccoci qua. Sì, salve Milan, io faccio l'avvocato e ascoltandola ho subito sentito cose che non mi piacciono, e le faccio un esempio. Bene. È chiaro che nel momento in cui la giustizia non funziona, il cliente non ci va dall'avvocato perché ha una sfiducia seria, ma il problema di cui volevo parlare è questo: la Procura di Roma manda a giudizio 20.000 processi. Sì. Il sistema che noi abbiamo, un sistema di tipo accusatorio, prevederebbe un terzo di questi processi a giudizio, il resto dovrebbe essere risolto prima con i giudizi alternativi, patteggiamenti, giudizi abbreviati, e questo le procure non lo fanno funzionare. Però mi scusi, perché lei dice che perché lei dice uno non si fida, non va dall'avvocato? Mi sembra da giudicare dai procedimenti invece che ci si vada anche troppo. Allora, Milan, io faccio il penalista. Nel momento in cui la giustizia non fa paura a un delinquente, perché c'è bisogno? Non c'è necessità di un avvocato. Questo, se uno delinque e sa che la giustizia non arriverà, perché ha necessità? Non possono essere gli avvocati ad avere l'utilità No, ma guardi, ma qua non c'è nessuno sotto processo, ma caro Giuseppe, lei dà una risposta ulteriore al fatto di che razza di paese sia quello in cui, no, Giovanni Bianconi, addirittura c'è un senso di impunità per una serie di reati. Tu, Giovanni, per esempio, dicevi appunto, sicuramente sono di minore allarme sociale, però ci sono alcuni reati che, per carità, non è che vengono cancellati, ma alcuni procedimenti che vengono accantonati, come quello appunto di ingiurie, di offese, ingiurie a pubblico ufficiale, frodi nel commercio, e però sono cose che, se danno quel senso di impunità, uno dice: ma allora io li faccio questi reati, no? Chi se ne frega? Lo so, ma questo, diciamo, vale lo stesso, anche se uno dice: no, facciamo tutti i processi, dopodiché il senso di impunità si allarga. Ma è chiaro, a tutti, no? È chiaro. No, no, no, ma è chiaro, dovrebbero arrivare a giudizio, altrimenti. Ma non c'è dubbio, il problema è che andare ai riti abbreviati, come diceva prima l'avvocato, in tante occasioni non conviene, perché dice: vabbè, perché c'è una ipotesi in più, che è quella della prescrizione. Quindi è sempre lì il problema. Io penso che quello sia uno dei problemi principali, sinceramente. Adesso magari gli avvocati la penseranno sinceramente, però visto dall'esterno, anche perché la prescrizione ha un senso, e cioè nel momento in cui lo Stato non ha più interesse, diciamo così, dopo tanto tempo, a perseguire un reato. Ma se lo Stato in tempo utile, diciamo, ha fatto una azione penale, ha esercitato l'azione penale, ha, diciamo così, richiesto rinvio a giudizio, o addirittura si è arrivati anche a una sentenza di primo grado, che senso ha mantenere ferma la prescrizione anche nei gradi successivi, quando ormai quell'interesse si è materializzato, si è raggiunto, diciamo così, dal punto di vista. Ha il senso, torniamo sempre lì, ad arrivare alla prescrizione da chi è l'avvocato difensore, cioè non dall'avvocato, ma anche ovviamente soprattutto di chi ha compiuto questo presunto reato. Io penso di sì, dopodiché poi il dibattito è aperto. Chiaro. Sentiamo Mario da Genova. Mario, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa. Io ero intervenuto per un altro argomento, però sento l'avvocato parlare di prescrizione. Sì. Ma la ratio della prescrizione mi sembra... È Giovanni Bianconi del Corriere, giornalista. Buongiorno, signor Bianconi. La ratio della prescrizione ha una duplice motivazione. La prima è quella di un cessato interesse da parte dello Stato a perseguire un reato per il trascorso del tempo. E questo l'abbiamo detto. E il secondo è la difficoltà di difendersi da parte dell'imputato per l'effetto del trascorso del tempo. No, però Bianconi diceva: se è arrivato al primo grado di giudizio, che senso ha che i termini di prescrizione non si blocchino, visto che in un primo grado di giudizio è stata accertata un qualcosa? Questa era la domanda più tecnica. Però lei, in che senso? Il primo grado di giudizio non dovrebbe significare niente. Certo, il terzo grado. Vabbè. Mario, ma in che senso voleva intervenire su qualcos'altro? Volevo intervenire sull'avvocato di prima, che diceva che nel suo territorio la giustizia funziona. Io non ho mai sentito un avvocato che ufficialmente dica che nel proprio territorio la giustizia non funziona, perché sono dei violinisti, loro devono andare dai magistrati e dipendono dai magistrati, il loro successo professionale dipende dai risultati che ottengono dai magistrati. Perciò è inutile chiedere a un magistrato di Milano come funziona la Invece la qui al presidente degli avvocati di Vicenza, che addirittura come provocazione hanno chiesto il fallimento del tribunale di Vicenza. Quindi è un discorso diverso, ma quando lei gli ha chiesto se i magistrati funzionano, lei ha detto sì, qui è un problema di ricambio dei magistrati. Perché dice non, visto che poi dopo il magistrato dovrà dipendere anche la sua causa. Mantovani, rispondo all'ascoltatore. Insomma, diciamo che io mi baso semplicemente sui dati, non è che posso mettermi a giudicare di Tizio, di Caio, di Sempronio, questo mi pare del tutto evidente. Tenga conto che qui a Vicenza, se ci sono situazioni di inefficienza, noi le segnaliamo al CSM, per cui almeno per quanto mi riguarda, credo che la mia valutazione sia semplicemente basata su dati obiettivi. Punto. Allora, per concludere, Mantovani, ma questa provocazione, come l'aveva definita anche lei, come andrà avanti? Cioè la richiesta del tribunale? Stiamo promuovendo questa iniziativa, che peraltro è forse la più eclatante, ma ne seguiranno comunque altre, perché noi siamo sempre in prima linea per chiedere al CSM che ci mandi quantomeno dei magistrati diciamo di prima nomina, i cosiddetti MOT, perché sono gli unici che non possono decidere dove andare, perché gli ultimi concorsi sono andati deserti per quanto riguarda Vicenza. Quindi più personale, lo fate perché è più personale. Sì, perché poi se non si parte da questo è inutile parlare del resto, se no, non puoi nemmeno celebrare i processi. Mi pare perfettamente inutile parlare di rinvio di durata, perché è un prerequisito questo. Questo certamente. Allora staremo a vedere come va a finire e se va a finire. È una delle priorità anche di Matteo Renzi, quella della giustizia. Adesso non ricordo se ad aprile, a giugno, a maggio o a giugno, ma insomma in questo cronoprogramma molto molto serrato per il momento si concentra sulle tasse e non solo, per il momento ci si concentra sulla legge elettorale. Io allora per il momento ringrazio Giovanni Bianconi del Corriere della Sera e Fabio Mantovani, presidente dell'Ordine degli Avvocati Vicentini. Dopo il traffico sarò da lui, ma è già collegato e lo saluto, il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, il primo relatore della legge elettorale, l'onorevole Francesco Paolo Sisto. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno allora, a lei, buongiorno a tutti. Un attimo di pazienza, dicono e scrivono sul Corriere che i cellulari sono rimasti accesi tutta notte, le chiederò se ha dormito questa notte per le ultime trattative. Dopo il traffico sono da lei. Allora, eccoci qua, onorevole Sisto, com'è andata questa notte? Ci sono state benissimo, perché no, tra l'altro benissimo si va per dire, perché ho preso un volo all'alba, quindi vabbè. Non ci sono state serrate trattative per la questione. Noi abbiamo una posizione, diciamo, tranquilla per due profili. Il primo, non ci risultano mutamenti nell'accordo Berlusconi-Renzi nella giornata di ieri su nessuno dei punti cruciali dell'Italico. Sì. E quindi se non c'è una volontà scambiata di modificarlo, questo debba mantenere il patto necessariamente. Il secondo passaggio, ancora più tranquillizzante, che comunque sul tema più scottante, almeno a leggere la stampa, quello delle cosiddette quote rosa della parità di genere, c'è una lettura costituzionale inequivoca. Ci sono due sentenze della Corte, la 422 del 95 e la 4 del 2010, che impediscono, oltre agli articoli 3, 49 e 51, che impediscono di ritenere la elezione coercibile a mezzo di norma. Insomma, al di là degli articoli che magari non conosciamo, non tutti conoscono, la questione è incostituzionale. La Costituzione fa sempre bene, certo, qualcuno la dovrebbe ricordare un po' più spesso. No, è chiaro, lei ci sta dicendo che sono mettere la parità di genere nella legge elettorale è un qualcosa che verrebbe bocciato dalla Corte Costituzionale. No, quello che non va bene è imporre la elezione di un maschio o di una donna, o di un uomo o di una donna a mezzo legge. Cioè la parità di genere va promossa dai partiti, come dice la Costituzione. Cioè chi deve fare cultura della politica sono i partiti, non lo si può imporre per legge. Guardi, le faccio un esempio semplicissimo. Se io volessi fondare il partito delle donne separate, qualcuno mi deve spiegare perché sono costretto a metterci un uomo. Cioè, voglio dire, io sono favorevolissimo alla parità di genere, ma lo strumento della coercizione normativa non si va può bene. Fare, però guardi cultura, che guardi che certo, però guardi che Renzi dice noi nel PD la facciamo, la facciano anche a Forza Italia. No, ma questo è una discussione che si fa all'interno dei partiti. Renzi ha ragione, cioè questo tipo di scelta va fatta all'interno del partito. Guardi, do un altro dettaglio. Nella legge sul finanziamento dei partiti, il decreto che è stato licenziato da poco, vi sono dei premi o delle non sanzioni per i partiti che manifestano una sensibilità alla parità di genere. È proprio giusto, che deve essere il partito al proprio interno a scegliere il tipo di parità di genere. Sì. L'imposizione per legge è sbagliata. Però lei ci esclude, presidente, che ci sia. Allora, lei ha detto non c'è stata una modifica dell'accordo Renzi-Berlusconi fino a questo momento. Siamo alle 8.50. Diciamo che alle 9.30, se non sbaglio, inizia la procedura per l'approvazione. Quindi che vuol dire? Succede qualcosa? Non succede qualcosa? Oppure a queste 90 parlamentari bipartisan che chiedono a gran voce qualcosa? E lei che risponde? Ognuno ha diritto di chiedere quello che ritiene ed è giusto. Il Parlamento poi ha dei numeri, ha dei meccanismi di democrazia che vanno al di là di qualsiasi situazione. Io quello che posso dire è che c'è un accordo sulla legge elettorale che ha tenuto, che tiene, è stato addirittura in qualche frangente modificato, ma sempre consensualmente. Il modello è quello della modifica consensuale, cioè si modifica, come ha detto anche il ministro Boschi opportunamente, con grande lealtà. Il patto si modifica se si è tutti d'accordo. Ad oggi questo patto non è modificato, anche perché guardi, un accordo complesso che riguarda una serie di passaggi. Certo. Cioè ora chiudere un accordo e poi andare a affrontare pezzo per pezzo l'accordo per poterlo eventualmente smontare. Questo certamente, però Presidente Sisto, non so, oggi Rosy Bindi sul Corriere della Sera dice questa cosa è irrinunciabile, io non la voto questa legge, e magari ci saranno anche all'interno di Forza Italia donne parlamentari pronte a non votarla. Guardi, come lei sa, noi siamo parlamentari senza vincolo di mandato, quindi è giusto che ciascuno esprima il suo parere. Io apprezzo molto quello che qualsiasi parlamentare dica, in particolare una parlamentare di grande esperienza e di lungo corso come Rosy Bindi, non lo condivido ovviamente, ma questo è il diritto di ciascuno, votare in un modo. Se mancherà un voto, pazienza. E se ne mancheranno 90, per esempio, perché 80. Arrivo a dirle che l'Aula potrebbe anche dire una cosa diversa, ma questo rientra nei meccanismi della democrazia parlamentare, ma i principi di etica, di lealtà, di correttezza fra Berlusconi e Renzi, credo che non siano mai stati in discussione. Il patto si è modificato solo sull'accordo. A me sembra questo un principio, come posso dire, di solidità politica e rinunciabile. Però Presidente Sisto, al di là dell'aspetto, lei dice, è una questione etica all'interno dei partiti. I partiti promuovano la parità di genere e quote rosa. Se non fosse una questione che costituzionalmente non regge imporla per legge, lei sarebbe favorevole? Cioè, secondo lei è un tema che è sul tavolo, ma andrebbe, oppure è un qualcosa che si sta facendo una gran cagnara su un nulla? Cerco di rispondere, in politica in genere si risponde con le parole, io provo, venendo dal mondo delle professioni, a rispondere con i fatti. Nel mio studio io ho l'80% di presenze femminili, quindi credo che una testimonianza diretta di fiducia nella parità di genere, anzi squilibrata qualche volta, cioè il punto è che se noi facciamo le leggi e ci occupiamo di conformità delle leggi alla Costituzione, dobbiamo tenere la barra dritta anche contro quello che può essere un malpancismo mediatico. Non si fanno le leggi con le emozioni, le leggi si fanno con il rispetto delle regole. Se venisse presentato, cioè tecnicamente cosa potrebbe succedere? Che qualcuno presenta un emendamento? Gli emendamenti sono già presentati. No, ma su questo tema? Su questo tema, cioè... anche su questo, certo, ce ne sono tre addirittura, a firma di una serie di parlamentari anche trasversali, ma ripeto, il diritto all'emendamento non è che nasce con le quote rosa. È proposta all'Aula una modifica del testo e se l'Aula lo vota passa. Ma questo certo, ma quindi questo. Voglio dire, Rosy Bindi dice rischio di non votare se non passa. Lei mi sta dicendo che se dovesse invece passare questa norma potrebbe non votarla lei, allora l'Italicum? No, guardi, io esprimo il mio voto con molta tranquillità, come tutti i parlamentari dovrebbero fare, cioè i meccanismi della democrazia non significa personalizzare quella che è la propria posizione. Ognuno dica la sua, la può esprimere liberamente in Aula intervenendo. Una cosa è sicura, che se questa legge elettorale, che è sicuramente importante perché introduce un bipolarismo efficiente, cioè è una legge che consente di stabilire chi governa e soprattutto introduce il meccanismo delle coalizioni che impediscono poi in sede di ballottaggio quegli apparentamenti vergognosi, quel mercato del voto che troppo spesso si è verificato. A me è una legge che piace e che ha un suo senso, però voglio dire, questa va tenuta. Ora, dire che invece è possibile che un emendamento possa essere votato in modo diverso, ma questo per carità rientra nelle regole del gioco. Ciò che conta è che il patto tenga, perché il Paese, lo dice la Corte Costituzionale, ha bisogno di una legge elettorale. Però certo, lei mi dice perché il patto tenga vuol dire che va modificata col consenso di tutti. Aggiungo un altro passaggio, questo è un patto, diciamo, uno e trino, cioè è un patto che riguarda legge elettorale, Senato e titolo quinto. Se cominciamo già a vacillare sulla legge elettorale, sicuri se possiamo fare riforme del Senato. Mi faccia in conclusione un pronostico, Presidente Sisto. Si approva oggi la legge elettorale, almeno la Camera, sì o no? Cioè, lei mi sta chiedendo un pronostico sul derby Roma-Lazio, visto che siamo a Roma. No, scherzi a parte, noi dobbiamo tenere una posizione che è quella conforme all'accordo. Poi, ripeto, il voto è affidato alla responsabilità di ciascun parlamentare. Grave sarebbe se questi emendamenti, a mio avviso, incostituzionali, fossero il grimaldello per far saltare la legge elettorale. Lei sa adesso le donne, che donne parlamentari contrarie a Renzi, lei sa che c'è tutto un tentativo di sabotare la legge elettorale per ridimensionare il fenomeno Renzi. Noi diciamo che il fenomeno Berlusconi rimane. Berlusconi ha fatto questo grande salto di qualità dimenticando le appartenenze e andando a dialogare col leader del partito di opposizione. Mi sembra che questo gesto nobile nell'interesse del paese dei due leader non debba essere mortificato, soprattutto violando dei precetti costituzionali. Ah, è chiaro, è chiaro. No, ma questo staremo a vedere. Intanto la ringrazio, sarà una giornata lunga, credo oggi, credo anche domani, chissà. Intanto il pronostico, insomma, la teniamo sul derby Roma-Lazio, 1x2, ecco, per l'approvazione dell'Italicum oggi alla Camera, 1x2, ci giochiamo una bella tripla come si faceva ai tempi del Totocalcio e via. Grazie a Francesco Paolo Sistro, che è il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera di Forza Italia, è il primo relatore della legge elettorale. Staremo a vedere se verrà approvata oggi, almeno alla Camera. Intanto ci fermiamo con Miriam Lucchetti in redazione, insieme ad Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi, e il nostro alpino Peter Bescapè in regia come sempre. Ah, oggi è lunedì, quindi lunedì, se volete, alle 21.10 sono su 7 Gold in TV, quindi con Funamboli, che torna anche questa settimana. E non mi resta che dirvi buona giornata, ci sentiamo domani qui alle 6.30, sì, puntuale. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.